pezzi miei congeniti, credimi, non ci sei tu. Se il cuore non partecipa, l'elica non gira più. Notti non ho per voli nostalgici, e poi tu non sei l'America, canto gli echi su te, ribalzano via, è la voce mia, non ha più senso. Se il cuore non partecipa, l'elica non gira più. Un'emozione autentica, credimi, non provo più. Ragione.